No, la cosa divertente è che il titolo in origine era di un saggio pubblicato da Marsilio, che è la stessa casa editrice che pubblica Simone. Il motivo per cui non abbiamo cambiato la cucina questa sera è che avreste dovuto mangiare cucina Yiddish, cucina italiana del nord e del sud, cucina genovese, cucina americana, cucina irlandese, perché questo libro è fatto da tutte quelle cucine ed è un libro speciale. In realtà è stato un regalo anche per Simone, perché questo libro è uscito neanche da una settimana e lui aveva esattamente oggi libero prima di andare al lancio del Salone di Torino di domani. La scelta del film è un ulteriore regalo, perché C'era una volta in America è un libro che è un film che ha ispirato questo romanzo. Vi troverete le stesse atmosfere e lo stesso tipo di personaggi. In più, il film che vedrete stasera ha delle scene in più, nel senso che è la versione lunga, no? Giusto, no? Quella media, insomma. Perché sapete che di questo film sono state ritrovate anche parti, è stato ridoppiato ed è particolare. Però è un film che nasce prima che come film, come testo letterario, che viene poi trasformato e trasportato al cinema. Allora, intanto vorrei che faceste un bel applauso per Simone Sarasso. Grazie. E il libro che vi presentiamo, che si chiama Da dove vengo io, è il primo di una saga in 9 volumi. Allora, non spaventatevi, nel senso che questo è autoconclusivo. Sai, se uno si trova bene poi torna delle volte. E essendo Marsilio l'editore anche della saga di Millennium, ovviamente gli ha messo il bollino 100 anni, perché porta buono. Però 100 anni non è una battuta e non è solo uno slogan. Era in realtà l'augurio che si facevano le persone dei primi del Novecento di arrivare a vivere fino a 100 anni. Allora, beh, innanzitutto grazie a Luca, grazie all'organizzazione, grazie a tutti voi che siete qua davvero e che avete fatto finta di niente pensando che io fossi John Esbo, soprattutto. Grazie per l'indifferenza e per l'eleganza. Detto questo, pur essendo John Esbo, vorrei parlare del libro di Simone Sarasso. Allora, 100 anni è una frase che gli appassionati di film criminali come me, come Luca, come tanti magari in sala, ha sentito ripetere nel corso delle proprie visioni, perché è sicuramente un augurio che è entrato nell'immaginario non solo criminale, ma di quell'immaginario di importazione di cui è fatta l'America d'inizio secolo e non solo. Se provate a metterlo come hashtag su Twitter, scoprirete rimpatriate di famiglie canadesi che festeggiano i 100 anni del nonno e semplici auguri di persone che vivono a Denver e che ricordano le tradizioni di famiglia. Quindi è qualcosa che si diceva e che si dice tuttora ed è un augurio, ma in realtà è anche un modo per descrivere un secolo in maniera corposa e tortuosa con una grande sintesi. Io, prima ancora di immaginarmi che fossero 9 i volumi, poi vi racconto la verità, dovevano essere 3, ma poi Ma poi cent'anni ti sei sono allargato. 100 anni. La prima volta che io ho avuto questa intuizione riguardo a questa serie ce l'ho avuta proprio guardando dei documentari sulla realizzazione dei 3 film del Padrino. Perché, come sapete, insomma, dal libro di Mario Puzo, dal secondo capitolo immaginato anche da Mario Puzo, si tende a raccontare una storia che è ispirata a fatti realmente accaduti. C'è l'eco di Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Frank Costello e Charlie Luciano in quelle vicende criminali, così come c'è in tante altre storie. E all'epoca, proprio questa parola, quando mi girava in testa questa parola, 100 anni, io pensavo, boh, ma sì, ma l'avranno già raccontata quella storia, la storia vera a cui tutti gli altri si sono ispirati. Io adesso ho il libro in giro da poco, ma non è la prima volta che mi capita in carriera, già mi capitò quando raccontai la storia dell'imperatore Costantino. Aspetto sempre che qualcuno alzi la mano in sala, smentendomi, sbugiardandomi, però a quanto ne so, ed è qualche anno che lavoro a questa saga, non esiste negli ultimi 60 anni una saga, perché quella è la proporzione, una serie di romanzi, in lingua italiana, anglosassone o spagnola, per chi io altre non ne so, te lo dico, che racconti questa storia. E allora era un'occasione irripetibile, già desideravo raccontarla, in più, come dire, si poteva fare. O forse nessuno l'aveva mai fatto perché era troppo folle da fare, ma c'era lo spazio per farlo. Una sera, a una festa per il lancio di un altro libro di un collega scrittore, io dissi, forse con un bicchiere di più in corpo, al mio editore: ho un'idea pazzesca riguardo a una storia criminale, la storia della New York criminale, del crimine di importazione. Si chiamerà Cent'anni, sarà una trilogia e racconterà un secolo di mafia americana a New York, dal 1901 al 2001, dall'inizio del secolo al crollo delle torri. Il mio editore sorrise, come fa spesso, per assecondarmi, e però si vede che qualcosa si dimentò, perché il giorno dopo arrivò l'offerta al mio agente da parte sua: la vogliamo fare, ci crediamo, parti. E io parto, e parto come sempre non sapendo assolutamente nulla di quello che devo raccontare. Il grado zero della scrittura in casa Sarasso è questa roba qui, e quindi comincio a documentarmi. Ho studiato un paio d'anni prima di cominciare a scrivere le prime parole di questo libro. Dico sempre di questi libri perché in realtà il secondo è già pronto, sto lavorando al terzo, però è un work in progress piuttosto lungo. Come ho scritto in coda al libro, saranno almeno 9. Perché? Perché sei megalomane? Sì. Perché sei grafomane? Sì, ma perché la storia è lunga. Teoricamente c'è un capitolo per anno. Teoricamente saranno 100 capitoli, i paragrafi sono molti di più. Teoricamente, perché poi in realtà in questo libro non c'è quasi mai una data, se non nei giornali che riporto integralmente a volte tra un capitolo e l'altro. Perché? Perché volevo che questo grosso flusso di tempo non fosse condizionato da date troppo precise, come succede nei libri di storia. Volevo che fosse una grande narrazione, quanto autentica, al 99% rispondo sempre, perché c'è stata molta documentazione, ho passato molto tempo sulle monografie dei singoli personaggi, poi magari ne parleremo, molto tempo in emeroteca, da questa parte, da quell'altra dell'oceano. Però soprattutto come dire, il grosso della storia lo fa quell'1% che è il motivo per cui facciamo gli scrittori, ovvero la libertà di poter inventare. Esistono delle cose inventate all'interno di questo romanzo, all'interno di questa serie. Naturalmente non vi dirò mai quali sono. Allora, tra le cose non inventate, ma che vi faranno subito affezionare al libro, c'è la parola che risuona nella testa dei protagonisti prima di arrivare laggiù dove vogliono andare. Questa parola è l'America, ma non è scritto L' America, è scritto proprio l'America, perché per gli immigrati italiani che andavano in quei posti non si scriveva grammaticalmente come lo scriviamo noi, ma si pronunciava proprio l'America. E tra l'altro non è una tua invenzione. Quando dici si scriveva è sempre un concetto un po' strano, sicuramente, perché molti non potevano nemmeno scrivere, non analfabeti. Molti non sapevano scrivere, e magari quando si arrivava da quell'altra parte dell'oceano, dopo un po' di tempo, quando si trovava il modo di capire come si manda una cartolina, tra le più emozionanti che ho letto a Ellis Island, che sapete era il luogo dove la gente si doveva obbligatoriamente fermare prima di essere ammessi in America, c'è una cartolina veramente di più di un secolo fa che dice testualmente, in una grafia molto bella come si usava all'epoca: siamo finalmente arrivati in questa famosa America. E voi immaginate che cosa può significare ricevere una cartolina del genere dopo magari 4, 5, 6 mesi, un anno. Lo stesso Charlie Luciano, nato Salvatore Lucania, rimane per un anno in quarantena a Ellis Island perché contrae il vaiolo, la varaiola vera. Così come ci rimane Vito Corleone nel Padrino parte seconda, lo vediamo fissare Lady Liberty dalla finestra della sua stanzetta proprio all'interno di Ellis Island. Se ci siete stati avete esattamente quel tipo di sensazione non appena mettete piede là dentro, ci sono ancora ricostruzioni, è una cosa molto anglosassone, poi trasportata in America, che a me piace molto, sarà perché sono papà e ho un bambino piccolo, e quindi andare nei musei abitati e non in quelli freddi piace molto a me, piace molto a mio figlio. Però il fatto di entrare in questo grande stanzone, che era più o meno come lo vedevano le persone come mio nonno, che arrivavano a Ellis Island con la nave dopo mesi di viaggio, e vederle ammonticchiate di valigie di cartone, poter fare il giro tra queste grandi distese di cartoline, affiche delle navi che offrivano viaggi transoceanici, è qualcosa che ti riporta così tanto indietro alle tue radici, che ti accorgi che da dove vengo io è qualcosa di diffuso, è un posto da cui la maggior parte delle nostre famiglie viene. Perché in realtà, leggendo questo libro, la prima domanda che ci facciamo è: quanti italiani andarono negli Stati Uniti? Che percorso fecero? E tra l'altro in Italia esiste un bellissimo museo, se ci volete andare ve lo consiglio, che è a Genova, che è il Museo della Marina, che racconta negli ultimi due piani l'itinerario che facevano questi migranti. A voi viene dato una valigia di cartone, vi viene dato un passaporto, non sapete chi siete e vivete l'esperienza di dover cercare di arrivare dall'altra parte. Ovviamente non vi parlano in italiano, vi parlano in americano con uno slang molto particolare e voi subite proprio quello che lui racconta, cioè venite identificati o non identificati, vi cambiano il nome, vi mettono le crocette e tu questa sensazione terribile che provavano le persone andando dall'altra parte la descrivi, descrivi come i tuoi protagonisti devono passare dall'altra parte. È il primo passo verso il nuovo mondo, verso questa famosa terra delle opportunità, verso questa famosa America che tutti hanno sperimentato e può essere più o meno indolore nonostante il viaggio sia già stato doloroso, l'assembramento, lo spaesamento eccetera, anche perché poi fuori da lì o hai qualcuno che ti aspetta o è un'altra avventura che comincia e non una delle migliori, però è anche può essere anche un semplice prodromo a una sorta di quasi detenzione preventiva, la quarantena, per tanti motivi, sanitari soprattutto, e però incomprensibile ai più. Puoi perdere te stesso e ritrovare qualcun altro, quando e se imparerai a leggere, o se avrai occasione di leggere il nome che hanno scritto sui tuoi documenti, che sarà il tuo nome d'ora in poi in America. E è una sensazione di straniamento che molte famiglie italiane hanno provato, e non solo. Io racconto sempre, sempre più spesso, adesso che ho occasione di portare in giro questo libro, la storia del mio bisnonno, Achille Sarasso, Alchilin, come lo si chiamava da noi. Io sono vercellese di nascita, trapiantato a Novara, e mio nonno aveva una grandissima predisposizione. Gli piaceva tantissimo bere e pochissimo lavorare. Questa è... E però a forza di sentirsi dire che non aveva voglia di lavorare disse: ma allora sapete cosa faccio? Io adesso parto e vado in America a cercare fortuna. Leggenda narra che il Chilin ci mise 6 mesi ad andare e 6 mesi a tornare indietro. Dice: nel frattempo l'onca l'è fatta, l'enciucasi. Vera, non vera, lui ci giocava molto sopra questa cosa. Fatto sta che a me capitò, perché lui andò e effettivamente poi tornò dopo un anno, a me è capitato diverse volte di andare all'Ellis Island per le ricerche del libro, ma la prima volta che ci andai l'archivio online non era ancora disponibile nella sua completezza. Adesso a pagamento, adesso potete vedere chi è arrivato, ma non potete vedere coloro che sono stati fermati, per quello bisogna pagare. E io acquistai questo servizio a pagamento perché avevo troppa curiosità e scoprii che lui fu fermato per una malattia infettiva di cui non si conosce l'esistenza, perché molte erano raggruppate. Ovviamente la diagnosi di Charlie Luciano è nota perché è diventato un'icona suo malgrado, o comunque popolare, e quindi sappiamo molte cose della vita di Charlie Luciano, della vita dal Chilin, va savei. Però probabilmente qualunque cosa si prese in nave poi gli passò, ed effettivamente non mise mai piedi in America, perché nel momento in cui finisce la quarantena c'è un altro registro in cui le persone vengono segnate. Io pensai che magari anche a lui, come a tanti, poteva essere stato cambiato il nome e avesse veramente bighellonato in quella famosa America. In realtà no, fu rispedito dopo un numero imprecisato di mesi da dove era venuto, e ci mise tra tutto quasi un anno a tornare da Vercelli a New York indietro fino a Pezzana, perché l'ultimo passaggio lo trovò fino a Pezzana, che è un paesino a 5 o 6 chilometri da Vercelli, e ritornò a piedi, così come a piedi con la valigia di cartone era partito per l'America. Però sulla certezza che si sia ubriacato al di là dell'oceano probabilmente non abbiamo, e secondo me più no che sì, perché il bar di Ellis Island, secondo me, per la gente che vi veniva così trattenuta lì dentro, secondo me non era uno dei più forniti. No, la cosa che a me ha emozionato leggendo il suo libro è che anch'io ho trovato un pezzo della storia della mia famiglia. Dovete sapere che io ho 4 bambini, di cui 2 sono 2 gemelli, e quando sono arrivati i gemelli ho fatto la telefonata a mia nonna e gli ho detto: nonna, guarda che ne aspettiamo altri 2. E ho sentito il più grande silenzio della mia vita. Io pensavo che la nonna non sentisse perché era sorda al telefono e non avesse capito, gliel'ho ridetto una seconda volta. Poi dopo ho sentito un colpo di tosse e mia nonna che mi dice: ti devo dire una cosa. E io dico: ma cos'è che mi devi dire? Perché io pensavo: no, avete sbagliato, avete esagerato, come fate adesso 3 bambini? No, infatti devo dire una cosa che non ti ho mai raccontato, che mio papà era un gemello. Sapete che nella credenza popolare, se ci sono in famiglia, sicuramente verranno gemelli. In realtà non c'entra niente con la genetica, proprio non c'entra una mazza. Cioè, i bambini è più facile che vengano gemelli se la partoriente è avanti nell'età sostanzialmente o se ci sono dei cicli della donna molto diversi. In realtà poi sono molto pochi i gemelli che arrivano alla fine della gestazione, perché in genere c'è un gemello che si mangia l'altro, lo elimina, insomma, per problemi di natura. Allora mia nonna mi dice: no, sì, il tuo bisnonno aveva una sorellina, erano omozigoti, e ti devo dire che a un certo punto hanno deciso assieme alla mamma e al papà di partire da Genova. Hanno lasciato la casa, loro abitavano a Gorgonzola, che è un comune fuori Milano, e sono partiti praticamente solo con i loro vestiti. Durante il viaggio è successo che è scoppiata un'epidemia di spagnola sulla nave. La mamma e la bambina sono morte, e la cosa terribile per quelli che erano sulla nave è che non potevano rischiare la quarantena. Siccome quando si arrivava a Ellis Island il regime era molto duro, quindi se c'era stato qualche malato a bordo, anche i sani non solo venivano tenuti in quarantena, ma non venivano sbarcati. Allora cosa hanno fatto? La mamma e la bambina le hanno buttate a mare, assieme agli altri morti. E il mio bisnonno e il mio trisnonno sono arrivati a Ellis Island. Già avevano questa grande sofferenza di essere arrivati senza la mamma e la bimba e di essere soli. Li hanno tenuti 1 mese e mezzo lo stesso in quarantena là. Non avevano nessun rapporto con la mafia o con il lavoro negli Stati Uniti, quindi non avevano i personaggi che trovate nel libro, che facevano parte, non so, della mafia irlandese o della mafia italiana, che ti trovavano da lavorare. Per cui dopo 1 mese e mezzo sono stati rispediti in Italia, senza un soldo, senza più una casa e con la famiglia dimezzata. Il mio bisnonno poi è morto all'età di 21 anni per una febbre contratta dopo un ballo, aveva sudato troppo, ma probabilmente quel viaggio lo aveva già segnato particolarmente. Questo libro ci riporta a un altro modo di leggere le storie degli immigrati e ci fa capire anche come spesso certe persone che non potevano sopravvivere potevano diventare dei criminali, perché i criminali che lui racconta sono veramente persone che non hanno un soldo in tasca, anche se alcuni di loro hanno degli oggetti curiosi. Uno dei tuoi protagonisti indossa un abito totalmente bianco, c'è questo bambino con un vestito principesco che gli è stato regalato e che sembra essere praticamente il figlio di un re che sta viaggiando. E qui oramai la prassi è rodata. Non so perché c'è sempre quest'usanza di leggere alle presentazioni, ma a questo giro io leggo sempre, quindi insomma non venite domani al Salone del Libro perché la rileggo. Fai quindi la stessa gag sostanzialmente. Faccio sempre la stessa gag, però perché secondo me è pertinente ed è una delle più belle storie. Intanto tu intrattieni il pubblico. Anzitutto questa è una storia vera, sì. Nel senso che l'abitino che è stato regalato al bambino... Ah, non dire chi, da chi, perché sennò... Ti dico da chi, è stato veramente regalato. La cosa curiosa è che prima che lui lo scrivesse in questo libro, nessuno l'aveva raccontato. 8 giorni prima della partenza, Frank gironzolava come al solito per la tenuta del barone. Il Frank in questione, inciso dell'autore, è Frank Costello, primo ministro della malavita, all'epoca solo Francesco Castiglia. Il barone Compagna era padrone all'Auropoli e dintorni e aveva questa casa infinita che tutti chiamavano tenuta. E non era una casa come le altre, coi muri, il camino, il cesso nel cortile, ma che scherziamo. Era come 10 case tutte assieme, 100 forse, Frank non lo sapeva. Ma insomma, questa tenuta era grande, tanto grande che pure la parrocchia della Presentazione del Signore, a confronto, pareva una grotta per i pulcini. E intorno alla tenuta era tutto verde, tipo un bosco gigante, pieno di ghiande e cose buone. Tra queste benedette cose buone ci stavano pure le fragole selvatiche, di cui Frank era ghiotto malato. E allora quel giorno, come tanti altri giorni, il piccolo era andato a trovare il nonno, che della tenuta era guardiacaccia. E insomma gli aveva chiesto se per caso gli dava il permesso di bighellonare. «Sì, ma non mi combinare guai!» Frank era partito, lesto come il treno espresso, senza paura. E le aveva scovate le fragole, altro che. Ma quando si stava succhiando la numero 12, o forse la 13, vai a sapere, perché Frank non era ancora pratico di numeri, non ti sbuca un nugolo di cacciatori a cavallo, fucili e tutto il resto, si capisce? E dietro, combinazione, viene il nonno, rosso come un cuore di bue, il più piccolo tra i cacciatori, ma un soldo di caccio vero, 30 centimetri soli in più di Frank, chiede: «Che ci fai, ragazzino, nel bosco?» E Frank, che del nanerottolo non ha nessuna soggezione, gli risponde: «Sono il nipote del guardiacaccia», e indica il nonno. «Lo aiuto a guardare le terre del barone», e per un istante c'è silenzio, di quelli spessi che da un momento all'altro parte un ceffone. Poi però il cacciatore basso, che porca vacca era il re d'Italia, sorride al nonno di Frank e gli fa: «Ecco 5 lire, comprate al ragazzino un costume alla marinara. Il vostro nipotino ha dello spirito». Ecco perché Frank ha indosso oggi quel cavolo di vestito speciale, ma non è mica finita. Quando la sera Frank e il nonno tornano a casa da Maria, all'Auropoli, la trovano imbambolata accanto al fuoco, con una lettera in mano. La fissa, come si fissa la Madonna in attesa d'una grazia, ma quella non parla. «Alla buon'ora!» si scantano appena quei due varcano la soglia. E neppure si chiede che diavolo ci sia nel pacchetto marrone della sartoria con la pesce che il piccolo Frank stringe sotto braccio. «Stamattina arrivò, proprio appena te ne andasti, potevo mica venirti a cercare, la casa incustodita, lasciavo». Non si capisce se quello di Maria è un rimprovero o un copione mandato a memoria dalle prime ore della mattina. L'attesa è stata lunga, non c'è che dire, e Frank ne avrebbe di cose da raccontare con la faccenda del re d'Italia, delle fragole, del costume alla marinara, ma il nonno piglia la lettera dalle mani di Maria e la schiude come una noce a Natale. «Di Luigi, eh?» E lei, mani sui fianchi, fronte bassa, più bassa del solito: «Perdonate, signore, ma mio padre non mi fece studiare. Ma avesse mandata alla scuola, invece che a bottega da Caterina, facile che imparavo pure a leggere, e mica me ne rimanevo una giornata a fissare un pezzo di carta scritta a mano». Oh, quante storie, dicono le spalle del nonno. Poi si mette a scorrere le righe una a una. E mentre lo fa, le labbra si muovono. Frank capisce che per leggere bisogna tenere occhi vispi e bocca a tempo. Un giorno imparerà pure lui, giura su Dio. Dice di partire subito, di vendere pure le lenzuola se serve, di prendere soldi a prestito. «Ma che? Non torna?» domanda Maria, ma la risposta l'ha capita già. «Subito dice di partire», ripete il nonno incantato. «Panza caniglia!» urla Maria. Senti, ma questi italiani che arrivavano dall'altra parte, è vero che le prendevano dagli irlandesi e entravano in un territorio dove c'era già una criminalità più forte di quella che loro poi portarono? Allora, intanto contestualizziamo. Il territorio era più o meno uno solo all'epoca, ovvero il Lower East Side, che adesso è un posto fichissimo, pieno di locali alla moda, dove le case cominciano a costare uno sproposito, ma all'epoca era il ghetto, sostanzialmente. Uno dei tanti, quello in particolare, che accoglieva gli immigrati di 3 aree geografiche: italiani, irlandesi e immigrati di origine ebraica provenienti da vari paesi, dalla Polonia piuttosto che da altri paesi. Cosa succedeva? C'era come sempre una gerarchia di frustrazione, così come succede nei peggiori carceri o nelle situazioni di miseria più estrema. E questa gerarchia vedeva al gradino più alto sicuramente gli irlandesi, perché erano arrivati prima. Alcuni irlandesi sono tra i primi poliziotti di ronda nel quartiere. Lo vedete e lo vedrete anche stasera in C'era una volta in America. Lì il poliziotto rappresentato è un poliziotto italiano. Sarebbe carino da vedere in originale se era davvero così o no. Sta di fatto che la maggior parte dei poliziotti di ronda erano irlandesi, quindi significa che avevano già uno status sociale di un certo tipo. In mezzo alla catena alimentare c'erano gli italiani, che però, come sempre, un po' dipende dall'ondata. Poi vi racconto anche un po' come si viveva. In fondo alla catena alimentare ci stavano gli immigrati di origine ebraica, anche se erano il motore economico del quartiere. Il distretto dell'Est, il Lower East Side, era noto per le sue produzioni sartoriali, il cosiddetto schmatte business. La maggior parte dei vestiti che la middle class, che allora non esisteva ancora, però sostanzialmente era la middle class newyorkese, indossava, provenivano da lì. Qualità buona, prezzo basso. Siamo ancora almeno 10-15 anni prima delle produzioni di massa, dell'arrivo dei grandi magazzini, dei mall, delle grandi produzioni e delle prime macchine che vengono utilizzate. Lì si faceva tutto a mano, con turni di 16 ore. Lì si moriva nelle fabbriche, chiusi a cucire camicette, anzi chiuse a cucire camicette. C'è una scena terribile in cui lui racconta la storia di queste ragazze chiuse dai proprietari che non possono neanche andare a fare la pipì. Il motivo per cui e a un certo punto si trovano nella stanza solo con i secchi dove c'è dentro la pipì e l'incendio che è scoppiato. E il motivo per cui non è vero che si festeggia, ma si ricorda la giornata internazionale della donna è quello. E quella cosa lì successe in una fabbrica del Lower East Side. Più di un centinaio di ragazze, in realtà 161, perirono per un incendio. Perché? Perché erano obbligate a turni da malavita, ma soprattutto erano state chiuse dentro, proprio per rispettare quei turni da malavita che non permettevano neanche di andare in bagno, dai padroni. E i padroni, appena è arrivato il fuoco, se ne sono andati, ma si sono dimenticati di aprire la porta, e questo ha portato a due alternative: bruciare vive o buttarsi dalla finestra. E ci fu pure l'indennizzo per le vittime. Oh sì, ci fu l'indennizzo delle vittime, un indennizzo ridicolo. Spiace sempre non ricordare il dato preciso, però l'ordine di grandezza è questo. Più o meno i padroni furono risarciti con una cifra che si aggirava, non lo so, mettiamo sui $75 per ogni persona che avevano perduto all'interno della fabbrica, mentre le famiglie delle vittime vere e proprie furono risarcite con $12 o qualcosa del genere. Immaginate l'assurdità, la follia e il sistema completamente deviato che c'era all'epoca e l'impossibilità di scappare. Cosa succedeva? Quando dico impossibilità di scappare, non è solo metaforica. Succedeva che gli ultimi arrivati, che magari il lavoro lo trovavano perché aveva qualcuno che li aspettava, come diceva Luca, che garantiva per loro, al primo, e soprattutto italiani, al primo giorno di paga venissero aspettati dietro l'angolo, capita al padre di Meyer Lansky, dai mix, dagli irlandesi, e fossero prima picchiati e poi derubati dell'intera paga. Quindi davanti c'era un'altra settimana di fame prima di mettersi in tasca qualche soldo. Questa sorta di guerra civile veramente tra poveri era l'ordine del giorno della vita nell'Est. E tra l'altro tu racconti come questa vita cambia in questa comunità a un certo punto quando scoppia il proibizionismo. Possiamo dire che quando cominciano a nascere le bische clandestine c'è qualcuno che ci scommette, che cambia il suo destino proprio grazie al blocco della produzione dell'alcol. Allora, ci sono tante fonti di approvvigionamento che vanno ad arricchire esponenzialmente, veramente con una progressione geometrica in pochissimi anni, e molte minoranze. C'è innanzitutto il gioco d'azzardo, si giocava a craps, che è il gioco più semplice del mondo, il lancio dei dadi, quello che magari vediamo ancora in qualche film americano, quello in cui si cerca di fare due con tutti e due i dadi che segnano uno. Il famoso tiro che viene denominato occhi di serpente. Quindi c'è quello, ci sono i dadi, i tavoli di strada, di craps, in cui gli operai si giocano la paga. C'è da che mondo è mondo lo sfruttamento della prostituzione, ma a un certo punto comincia ad arrivare una nuova era, che alcuni intuiscono, altri meno, ovvero all'inizio del 1920, con il Volstead Act, viene proibito con un anno di preavviso il consumo e la vendita di alcol a scopo ricreativo, perché dal punto di vista medicinale e dal punto di vista liturgico era concesso. Potete già immaginare la quantità di medici che prescrivevano a se stessi e agli amici un cichitin prima di andare a dormire, un'intera bottiglia di whisky. Quello si poteva acquistare. Il problema è che non si faceva più l'alcol se non a scopo medico e a scopo sacramentale. Il vin santo veniva importato, si poteva usare per la messa, anche perché in una città con 1,5 milioni di cattolici, insomma, non avere il vin santo per la messa poteva essere un problema. Detto questo, esisteva da un lato un enorme potenziale fetta di mercato. Ci sono vari modi nella criminalità non ancora organizzata all'epoca di affrontare la questione. La vecchia guardia, quella che aveva, come dire, come suoi referenti Salvatore Maranzano, Gio Masseria, Johnny Torio, quelli che venivano definiti i mustache pit perché all'epoca portavano ancora i baffi, baffi proibiti dal regolamento del sindacato interstatale del crimine dei suoi albori. È una roba che vediamo anche in Donnie Brasco, quando Al Pacino dice a Johnny Depp che se vuole veramente far parte della famiglia deve tagliarsi i baffi, perché sono contro il regolamento. E i vecchi baffuti come gestivano la questione? Dicevano, non si vende l'alcol, ma la gente lo vuole bere, ma sai cosa facciamo? Insegniamo in una maniera veramente pericolosa a produrlo in casa alle famiglie di migranti che noi controlliamo, e chi se ne frega se viene fuori un prodotto che potenzialmente ammazza 9 clienti su 10. Lo faremo pagare comunque centinaia di dollari e la gente lo comprerà. E poi c'era un approccio squisitamente più imprenditoriale, più di alto profilo, che viene da un genio della finanza criminale che è Arnold Rothstein, figlio del Lower East Side, come tutti gli altri protagonisti del libro, ma in realtà straordinariamente dotato dal punto di vista intellettuale, che riesce a fare a procurarsi attraverso il gioco d'azzardo prima e poi il contrabbando di alcolici dopo, un'evoluzione sociale impensabile. Rothstein ha neanche 30 anni, già vive sulla quinta strada, avrebbe potuto dimenticarsi delle proprie origini, e ci è arrivato facendo il prestito ad usura, bazzicando gli ebrei dei quartieri alti, perché cominciano ad esserci anche quel tipo di famiglie, l'evoluzione sociale ha cominciato a ruggire come un motore potente, ma soprattutto immagina di importare il whisky dai posti in cui è ancora legale, ovvero più o meno ovunque a parte l'America. Allora cosa fa? Tramite una serie di conoscenze altolocate stringe un patto d'acciaio con un produttore di whisky, il King's Ransom, che è un whisky pregiatissimo che viene dalla Scozia, col produttore, perché questo produttore in visita a New York è stato ospite di una delle bische di Arnold Rothstein, una tra le più raffinate, dove si giocavano centinaia di migliaia di dollari a serata, all'epoca in cui la gente davvero viveva con un dollaro al giorno. E stipulando questo patto d'acciaio, il produttore del whisky non ha nessun problema a farlo arrivare in America, però lui dice, io la legge non la voglio violare, quindi arrivo fino al limitare delle acque internazionali e poi te ne devi occupare tu. È così che nasce il grande business dello smuggling, del contrabbando. Diventerà così grande, così fuori controllo, che a un certo punto i ragazzi, ovvero gli albori del sindacato interstatale del crimine, insomma, poi parleremo di questa strana liaison tra due italiani e due ebrei, si organizzeranno comprando una flotta di imbarcazioni veloci, da diporto, attrezzate per il trasporto. Poi c'è una storia legata a una di queste imbarcazioni, che ho raccontato ieri durante un'intervista, che è pazzesca. Addirittura a un certo punto uno yacht appartenuto a Charlie Chaplin viene acquistato da Frank Costello, viene svuotato e viene riempito di casse di whisky. Perché? Perché ci arriva a un certo punto in cui la guardia costiera ha mezzi sempre più veloci, e per scappare dalla guardia costiera occorre della potenza, occorrono delle barche che possano sviluppare dei nodi. Quello yacht è uno yacht particolarmente performante per l'epoca. Voi pensate che quello yacht, di cui io ho le foto e sono praticamente sicuro al 90% che sia quello, non è mai andato a fondo. È passato di mano negli anni. Al momento, se, come dire, se tutto è rimasto come 2 anni fa, quando l'ho visto l'ultima volta, è di proprietà di un grosso produttore di olio ligure, che, ma io perché lo so? Non perché amo la cucina molto oleosa, anche se la amo, essendo io norvegese, come tutti i norvegesi, adoro l'olio d'oliva, si sa. Classico prodotto esotico che qui in Norvegia non abbiamo. Perché un caro amico che lavora in una ditta che produce motori marini conobbe questo magnate dell'olio e questo signore gli disse: questo è lo yacht, questo yacht era appartenuto a Charlie Chaplin, io volevo farne una creatura moderna, però non è la prima ristrutturazione che subisce, perché pare, leggenda vuole, che fosse stato usato negli anni 20 per contrabbandare alcol. Io questa parte della storia è quella che mi ha fatto saltare sulla sedia, perché poi sono andato a vederlo questo yacht effettivamente, ma soprattutto io ero già stupefatto dall'aver trovato lo yacht di Charlie Chaplin nella flotta di Frank Costello, e vi posso più o meno garantire con 99% di certezza che è la stessa barca che adesso sta vicino Imperia. E ovviamente l'olio è lì, lo producono lì, è il più distribuito nelle case degli italiani anche. E dei norvegesi. Allora, senti, ma uno dei grandi business che facevano questi personaggi, è vero che era legato ai carciofi? All'inizio sì. In realtà, allora, la camorra dei carciofi è come dire, la generazione precedente all'invenzione di questi business moderni, come lo smercio dell'alcol, perché poi l'alcol arrivava e il signor Rothstein, che aveva una clientela di gran classe, non lo tagliava. Vendeva le bottiglie intatte che arrivavano dall'America, dall'Inghilterra, dalla Scozia. Lui le comprava per $4 l'una e le rivendeva a $65 l'una. Ma i margini di profitto dell'epoca, già adesso una bottiglia di whisky da $65 non deve essere male. Quella da 4 eviterei di comprarla. E però la maggior parte degli importatori, perché poi non solo lui lo fece, ma molti altri cominciarono a imitarlo, magari più in piccolo, cosa facevano? Appena arrivavano le bottiglie lo tagliavano, caramello, alcol di pessima qualità, che era quello che veniva distillato nelle case, tanto vai a sapere, nel senso, questi qui hanno sete, bevono l'acqua qualunque, ed è vero, era questa cosa qui. Però Rothstein aveva un'idea del proprio business, cioè diceva: quando l'esclusività sarà come dire, più difficile da reperire, semplicemente alzeremo il prezzo e la gente lo vorrà comunque. Però sicuramente avrà un prodotto di qualità, sicuramente lo zio Tony venuto in visita che beve il bicchiere della staffa non morirà di ulcera il giorno dopo, eccetera, eccetera. Però la generazione precedente, cioè quella in cui si muove Petrosino, per capirci, insomma, quella di Gio Masseria, Gianni Torio, quella dell'Unione Siciliana, di Mike Petrucci, non è che fosse aliena dal business, semplicemente però si inventa qualche cosa che ha a che fare con davvero il concetto di importazione delle proprie radici nel nuovo mondo, ovvero se Colombo portò tutti quei cibi a cui mia moglie è allergica, patate, pomodori, melanzane, eccetera, e i signori Masseria, Maranzano, eccetera, i loro padri portarono all'America qualche cosa che l'America non aveva, i carciofi. Perché? Perché dalle parti loro se ne producevano tanti, perché le navi si caricano di cristiani e di carciofi, si diceva, e quindi quel cibo pregiato e ricercato, se lo volevi dovevi andare a comprartelo al mercato solo nel Lower East Side. E questo mantenne generazioni di mustache pit, esattamente come poi si vede, che ne so, nel Padrino, sempre parte seconda, che il commercio che hanno i Corleone all'inizio della carriera di Don Vito era l'olio, perché anche quella è un'altra specialità che pian piano puoi importare parallelamente se tu hai gente là a casa tua che te lo manda, eccetera, eccetera. Senti, ma come hai scelto i 4 protagonisti che fai crescere insieme e che raccontano praticamente tutto il tuo romanzo? Beh, loro sono l'autentica storia del crimine organizzato, verrebbe da dire newyorkese, americano, ma in realtà mondiale, perché sono loro che si inventano un nuovo modo di fare crimine al di là dell'oceano, ma poi lo esportano. È davvero nuovo perché in qualche modo la generazione precedente di criminali continuava a essere visceralmente legata alle proprie radici, soprattutto dal punto di vista del business, ovvero gli italiani non si mischiano con gli ebrei e neanche con gli irlandesi, e così vale per tutti gli altri. Addirittura i siciliani malamente si mischiano con i calabresi. A volte può succedere di collaborare, ma... Quindi immaginate un nuovo mondo a compartimenti stagni. Quella generazione non parla inglese o parla l'inglese che gli serve per sopravvivere. Orgogliosamente mantiene le radici siciliane. Ancora adesso, se girate per quello che è rimasto di Little Italy, che oramai sapete è quasi tutta Chinatown, c'è qualche cosa che ricorda vagamente quelle tradizioni. Poi vabbè, sì, forse al Columbus Day qualcosa in più vedi, però il quartiere è cambiato mille volte. Cioè il quartiere che racconta Scorsese in Gangs of New York, che è proprio quello, che è proprio l'incrocio dei Five Points. Altro, quella scena c'è nel libro, sì. Lui la racconta dal suo punto di vista, che è diverso rispetto a quello di Scorsese, che è vera. Tutta proprio la lotta tra le gang. Beh, io sono talmente ossessionato da quella città e da questa storia che l'ultima volta che sono andato a New York sono stato a dormire, un po' per puro caso e un po' perché volevo, al 100, al 100 di Moscow Street, perché lì è l'esatto punto in cui la battaglia ebbe luogo. Adesso è tutt'altro, però... È proprio adesso il centro di Moscow Street, è proprio tra Chinatown, dietro c'è un parchetto dove al mattino vedi i cinesi fare tai chi alle 7 del mattino, di fianco ci sono le botteghe funerarie cinesi, che sono delle cose su cui varrebbe la pena scrivere un romanzo, eccetera. Però quello era il posto, per dire quanto è cambiata la città. All'epoca era la prateria, la periferia, insomma, lo vedete nel film, ci vedevano i ricchi in visita per capire com'era la vita vera. Però, tornando alla tua domanda, scusate se divago sempre, perché la prolissità si vede non solo dal numero di pagine, ma anche dal numero di parole, perdonate. Loro quattro non sono scelti a caso, loro quattro naturalmente sono realmente esistiti: Charlie Luciano, nato Salvatore Lucania, Diler Carafriddi, siciliano, Francesco Castiglia, diventato Frank Costello di Lauropoli, Majer Lansky che viene da Grodno in Polonia, che scappa dalle persecuzioni e che trova nuove persecuzioni nel Nuovo Mondo, però nato Majer con la A e con un cognome impronunciabile, Sukovliansky. Capite che Lansky è molto meglio, quando sei lì alla dogana, Lansky. e poi l'ultimo, Benjamin Siegel, l'unico nato a New York, perché è più giovane degli altri, l'uomo che inventò Las Vegas, tanto per dire. Questi quattro si trovarono davvero a collaborare, a fare qualcosa di unico nella storia del crimine e nella storia del business di quell'epoca, se di business si può parlare, partendo dallo spaccio di alcolici a quello di eroina, lo sfruttamento della prostituzione, eccetera. Collaborarono italiani ed ebrei, e all'inizio neanche loro capirono perché lo stavano facendo, ma capirono ben presto che era molto redditizio. In realtà la scintilla di tutto è la grande amicizia, il rapporto speciale, quasi simbiotico, che c'è tra Majer Lansky e Charlie Luciano. Charlie Luciano viene Lucky Luciano viene ricordato come il boss assoluto di quei tempi. In realtà poi la sua operatività, per motivi che non vi dico, se non siete appassionati di storia, perché se no si svelano le sorprese, non è mai bello un convegno sul giallo, ebbe meno operatività di altri. Majer Lansky fu da un lato l'eterno secondo, dall'altro il sognatore. Lansky è quello che nella Cuba pre-Castro immagina casinò come quello di Monte Carlo, e infatti chiamerà il suo casinò Monte Carlo, e pochi giorni dopo l'apertura scoppierà la rivoluzione e il casinò verrà chiuso, gli verrà tolto. Frank Costello, che da giovane veniva chiamato il pistolero, deciderà, dopo essere finito in galera giovanissimo, di non portare mai più la pistola, e riuscirà a morire di infarto a quasi 80 anni, una roba non facile in quell'ambiente. E Bugsy Siegel, il matto, un assassino, stupratore, bello come un divo del cinema, addicted to drugs in maniera imbarazzante, sarà colui che inventerà Las Vegas, ma ovviamente non vi dico come, perché è l'argomento quantomeno del prossimo volume, e poi Vardum, perché secondo me è già nel terzo. Senti, ma raccontare questi personaggi, cioè, non porta un po' alla fascinazione verso questo male, verso questi criminali? Cioè, nel senso che leggendo il libro fanno delle cose terribili, pazzesche, li capiamo anche perché vengono da una situazione di povertà, però sembra magari ai lettori che tu abbia una passione per loro, cioè insomma che ti schieri da quella parte lì. È una grana, credo che... Adesso me la dico grossa da solo, perdonatemi, mi scuso preventivamente. Credo l'abbiano detto anche a Stanley Kubrick quando girò Arancia Meccanica, credo l'abbiano detto anche a Scorsese e a Sergio Leone. E in realtà è quella roba lì, nel senso che di mio nella vita ho fatto un sacco di lavori, però i più significativi sono lo scrittore e il maestro d'asilo. Ho un bambino, non mi piace fare a botte, già non mi piaceva da ragazzino perché soprattutto le prendevo, pago le tasse con grande piacere, non vado forte in macchina, non guido se ho bevuto un bicchiere in più, sono un noiosissimo legalista a cui piacciono i libri. Detto questo, non è detto che io non sia affascinato dal cosiddetto lato oscuro, per parlare in termini di Star Wars, cultura popolare per tutti, ma soprattutto per me. Perché? Perché fin dai tempi di Dante, che, al quale non ruppero le palle perché scrisse prima l'inferno del paradiso, e il lato oscuro è una fascinazione naturale, c'è una parte animale, deviante, il vecchio discorso della catarsi, del, come dire, del leggerlo piuttosto che farlo, è vecchio come il mondo. Platone stesso nella Repubblica racconta che uno dei suoi personaggi maledice se stesso tutte le volte che passa davanti a un'esecuzione pubblica e vuole guardare. Lui sa che questo lo farà star male, ma lui parla coi propri occhi dicendo: siete disgraziati, tutte le volte mi ci fate ricascare. Perché siamo così affascinati dal male? Per questioni ancestrali che hanno a che fare con la nostra società. Grazie a Dio la violenza è stata alienata fin dai tempi di Hobbes alla forza pubblica, poi non sempre, si diceva che a pochi metri da qua stamattina sparavano, ieri mattina sparavano, però in linea di massima è quella roba lì. Se tu alieni la forza pubblica o comunque la possibilità di infliggere dolore, punizione, coercizione allo Stato e sei punibile se la infliggi tu, forse io e te non ci ammazziamo ma andiamo a cena assieme. Cosa che intendo fare, tra l'altro, andare a cena assieme. Senti, ma le forze dell'ordine, come le racconti? Perché in realtà i poliziotti che noi vediamo in azione in queste storie non sono esattamente così buoni come uno se li immagina. Solo sono collusi con la criminalità, ma costituiscono un potere criminale a loro volta in giro per le strade. A me non piace raccontare i buoni perché sono noiosi. Da che mondo è mondo, tutti preferiscono Darth Vader a suo figlio. Perché? Perché veste più fico, senza dubbio, perché è più tormentato, perché ha un passato complicato, perché si è dannato, eccetera. Raccontare una grande storia criminale che nasce dalla povertà e affonda le ginocchia nel sangue, perché questi signori, come dire, fanno scelte assolutamente non condivisibili, non ve ne rivelo neanche una, perché sta tutto lì il gusto, ma fanno qualcosa di assolutamente spregevole a innocenti. E quindi sicuramente, a meno che non si soffra di psicopatologie importanti, non si può essere completamente solidali col loro atteggiamento. Tuttavia, dal punto di vista narrativo, rimangono molto più interessanti, perché in alcuni casi si segue un delirio che non porta da nessuna parte se non in fondo al baratro. In altri si assiste a un dilemma morale che pian piano viene eroso, una goccia alla volta, un dollaro alla volta, una bottiglia alla volta, una promessa non mantenuta alla volta, che porta all'inevitabile caduta con alle spalle la creazione di un impero monumentale. Di queste contraddizioni io credo fatta la letteratura. Sono queste, fin dai tempi della guerra di Troia, le storie che ci piace ascoltare intorno al fuoco o accanto alla abat-jour col libro in mano. Senti, visto che troveranno anche fuori alcune copie dei tuoi romanzi storici, lui ha scritto l'unico, insomma, romanzo storico importante e avvincente dedicato a Costantino, ne ha scritto uno sui gladiatori, ma ha anche riraccontato Enea. sono tre libri pubblicati da Rizzoli che hanno avuto un sacco di successo e che ti hanno cambiato anche la vita dal punto di vista editoriale. Ma c'è differenza tra raccontare in maniera epica quel mondo passato e raccontare i gangster dell'America che racconti qua, o è più o meno la stessa cosa? Sostanzialmente, se io vi dovessi dire che autore è Sarasso, più che un noirista, io direi che è un grande autore di western, anche quando racconta il passato. Sapete che Sergio Leone raccontava sempre che in realtà i suoi film non erano altro che l'Iliade e l'Odissea riscritte con i personaggi con i nomi cambiati, perché sosteneva che la tragedia greca era la base di tutto l'epos del western, ma anche del noir. E se andate a pensarci, molte di quelle storie hanno proprio questo meccanismo. Io insegno scrittura creativa all'università, alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e una cosa che dico sempre ai miei studenti è che gira, signori miei, le robe che succedono agli esseri umani sono sempre quelle lì. Si nasce, ci si innamora, ci si tradisce, si ama, si muore, si uccide. La tragedia greca, Shakespeare, questa roba qui, l'immenso Sergio Leone. E il western è un buon esempio, perché cosa succede? Succede che in una città di frontiera, dove le cose non vanno per il meglio, arriva uno straniero e risolve una situazione terribile perché un nemico insormontabile sta arrivando a cavallo. E qualcun altro che anelava al posto di sceriffo si vede soffiata la stella da quello che è venuto da fuori. È una storia che abbiamo già sentito, che ci piace farci riraccontare in un sacco di modi. Non è che la guerra di Troia sia tanto differente. Ma soprattutto quello che mi interessava era, e che mi interessa far capire ai miei allievi quando io riporto un po' in campo i miti, insomma, mi piace riraccontarli, così come mi piace raccontarli a mio figlio che ha 5 anni e mezzo. Proprio ieri sera ci siamo addormentati, il plurale non è a caso, anche il papà si è addormentato poco dopo, ma può succedere. Leggendo, abbiamo cominciato leggendo il primo romanzo per ragazzi di Giorgio Cerbanenko, che donato prontamente dal dottor Crovi che l'ha curato, ma mio figlio mi ha detto è troppo da grandi, leggiamo Ercole. E poi, raccontando le storie di Ercole che tanto piacciono ad Alberto, che avrà già sentito 10.000 volte essendo il papà appassionato di miti greci ed essendo il papà lì per scrivere 2 libri su Ercole, quindi insomma, come dire, portarsi il lavoro a casa per una buona causa, però raccontavano storie che magari da un certo punto di vista di intreccio narrativo sono di una grande semplicità. Tuttavia io spiego sempre ai miei allievi, che piacciono a mio figlio, piacciono a tutti, però io spiego sempre ai miei allievi, quando si lamentano della estrema semplicità di alcuni miti greci, che quando sono stati pensati e raccontati, e pensate quanta strada, quanti anni hanno fatto, non c'era Netflix, non c'era Il Trono di Spade, non c'era Star Wars, non c'era Sergio Leone. Stai tu su un'isola tutto il giorno con le capre e inventati il mito di Crono. Tanta roba, eh? Allora, io chiuderei l'incontro con una domanda che riguarda il tuo passato di scrittore. Lui ha scritto una trilogia, che è quella che ha iniziato la sua carriera da Marsiglio, che ha riraccontato la storia d'Italia negli anni 60, 70 e 80. Nel libro di Gangster lui usa fatti veri e personaggi veri in scena, e quindi tutto quello che leggerete è inserito in un contesto reale con un po' di fiction. Là invece, quando ti sei trovato a raccontare stragi, omicidi, rapimenti, truffe, crack finanziari, hai dovuto in realtà far sparire i nomi, non solo perché alcune tragedie in Italia non hanno avuto un finale giudiziario, parlo della strage di Piazza Fontana, della strage di Piazza della Loggia, che lui racconta nei dettagli in questi libri, e quindi tu hai cancellato dei nomi, ma hai raccontato dei fatti che in realtà i tuoi lettori hanno riconosciuto immediatamente. Uno, perché li hai dovuti cancellare o nascondere in qualche modo? La risposta breve è per non finire in galera. La risposta un po' più articolata è: quale verità spetta al narratore? Banalmente nessuna, nel senso che i romanzieri sono bugiardi professionisti, si fa questo mestiere perché da piccoli si raccontavano un sacco di balle, temo, e si è voluto continuare a farlo, addirittura si è riusciti a farsi pagare per farlo. Però se alla ricerca della verità si va, a volte nella produzione del cosiddetto giallo sociale degli ultimi 20 anni, quella che è stata la mia scuola, la mia palestra, grandi autori a cui devo tantissimo, Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo, Massimo Carlotto, insomma proprio i miei maestri, va a finire che quella verità, con la V minuscola, vai a sapere, è sicuramente diversa da quella che si può trovare nei libri di storia o negli atti giudiziari, forse quella con la V maiuscola, senza saperlo. Prendiamo un esempio come la strage di Piazza Fontana, dove dopo 36 anni di processi la vicenda si chiude senza nessun colpevole e con l'obbligo a norma di legge al pagamento delle spese processuali nei confronti delle vittime, parenti delle vittime, che poi il Comune di Milano si accolla per vergogna. Tuttavia è vero che nessuno è colpevole della strage di Piazza Fontana, sì, qualcuno è morto, e allora è vero che nessuno è perseguibile, ma c'è una storia che può essere raccontata riguardo ai presunti colpevoli? Secondo me sì. Chi lo può fare? Non lo può fare il giudice. La legge va applicata per quello che è, può essere cambiata, ma lo può fare uno storiografo? No, perché uno storiografo si basa sui fatti. Ci sono alcune cose che conducono a dei vicoli, alcuni percorsi di indagine che conducono a vicoli ciechi. Forse può farlo un narratore. Ma può avere la certezza che le cose siano andate così? Naturalmente no, perché un narratore non ha nessuna credibilità, né deve averla dal punto di vista storiografico. Però può inventare. Può inventare una storia che ricordi quella vera e che magari come obiettivo più alto, e qui quando parlo, cazzo, mi sembra di sentire parlare Carlo, si vede che proprio... Hai preso lo stesso accento di Lucarelli mentre sì. Stavi sì. Tac, sui misteri fa paura, d'Italia. Fa paura. Infatti mai insieme, solo raramente. Ma infatti bisogna fare paura, ecco. No? Poi si diceva anni fa che ci assomigliassimo anche e nessuno dei due era contento. Com'è come non è, nessuno dei due era contento. No, forse spetta davvero ad un romanziere. Spetta ad un romanziere raccontare una storia che abbia come obiettivo più alto quello di far incuriosire il lettore e fargli magari prendere in mano un saggio, cercare su internet quale poteva essere la luce al fondo di quel vicolo cieco. Allora, io vorrei che faceste un bel applauso per Simone Sarasso. Vi ringraziamo ovviamente di aver partecipato a questo incontro e io sono sicuro che se lo leggerete lo troverete molto contagioso. Grazie. Grazie mille a Simone Sarasso, grazie mille a Luca Crovi.